Oggi tutti parlano del vero amore, quello di Shrek, della Bella Addormentata. A me non va. Sapete perché? Perché mi ricordo di quando andavo a scuola. Era il giorno in cui ogni minuto era dedicato a ricordarti che gli altri sono felici e tu no. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, quasi 7 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Ci sono i giorni di festa pubblici e quelli privati, le feste comandate e quelle personali. Le feste comandate, com'è come non è, le odiano tutti, però tutti le festeggiano. Forse la più bistrattata di tutte è Ferragosto, un po' perché non si capisce che cosa si festeggi, e un po' perché di solito si è già in vacanza e non ha senso festeggiare se non c'è un giorno di lavoro da saltare. Poi spesso succede che nei giorni di festa comandata accadano delle cose più importanti di qualsiasi comandamento, e quindi quei giorni diventano veramente importanti. Natale, ad esempio, è il 25 di dicembre. Il 25 di dicembre è il compleanno del mio amico Filippo. Il 1 maggio è la festa dei lavoratori, ma il 1 maggio di 20 anni fa io mi rompevo malamente un braccio cadendo da un muretto, e per me quel giorno lì ha un significato e a modo mio lo festeggio. La festa di Tutti i Santi è il 1 di novembre, ma io me lo ricordo perché quando ero un bambino, quel giorno, mio padre arrivò a casa con un cane grosso così. Era un cucciolo di bobtail, piccolo e pieno di pelo. E non c'è santo che tenga, quel giorno lì, per me, è il giorno di Bob. Sì, si chiamava così. E poi c'è la festa più odiata di tutte, quella che non è comandata, ma è come se lo fosse. Quella che dicono sia stata inventata dalle multinazionali del cioccolato. Quella che nessuna coppia dice di volere festeggiare, ma cui ogni donna pensa almeno un secondo in quel giorno, almeno in un angolino nascosto del suo cervello, anche solo per maledirla, anche solo per ricordarsi che lui non ha nemmeno fatto finta e che al massimo toccava a lei dire che non era importante e non a lui arrogarsi il diritto di deciderlo. Quella festa cade il 14 di febbraio, cioè oggi. Ecco perché oggi vorrei sentire persone per cui questo giorno è importante davvero, perché per loro è una ricorrenza particolare, perché anni fa è successo qualcosa che l'ha stampata nella loro memoria. Qualcosa che non ha a che fare con i fiori, con le cene al lume di candela o con gli innamorati di Peinè. Qualcosa che è molto personale e che è successa il 14 febbraio di tanti anni fa. L'amore a volte somiglia a un discorso riuscito male. Dovevi essere conciso, efficace, e invece ti sei dilungato troppo. Per avere un amore perfetto ci vuole reattività e coordinazione, proprio come un Gordi Rune. E invece là fuori tutti temporeggiano. A San Valentino tutti vanno a cena ed ordinano pizze a forma di cuore. Così i ristoratori e i pizzaioli impazziscono. Altri spendono soldi per dei gioielli e lasciano orefici distrutti dal dolore, perché anelli a centinaia se ne vanno e non tornano più. Meglio dunque una scatola di cioccolatini. Io non so esattamente che cosa sia questa roba qua. So che me la sono trovata sul profilo Facebook, quella del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. E all'inizio non capivo se era una presa in giro o cosa, se era un film o se erano dei pezzi di film presi e montati insieme. Poi alla fine credo che sia semplicemente qualcosa che è nato dalla testa di questo ragazzo che si chiama Donato Barile e che l'ha pubblicato sul profilo Facebook. Andate a vederla se vi capita, è una cosa che dura 4 minuti e questo era solo l'inizio. Visto che di solito io cancello quello che viene caricato su quel profilo Facebook che non abbia a che fare con la puntata e con quello di cui parlo nel programma, devo dire che non solo ho lasciato questo piccolo cortometraggio perché aveva un senso oggi, ma perché effettivamente era talmente assurdo che, come tutte le cose assurde, non so come un senso ce l'hanno. Io non so esattamente chi sia Donato Barile, però sul suo profilo mi sono stampato delle cose, quindi so che gli piacciono le donne, che la situazione sentimentale è impegnato, che è un uomo e va bene, e informazioni su di lui sono che, questa frase è una citazione credo, chi è povero se ne va leggero, ma la ricchezza è un peso di gran lunga più leggero della povertà. Lui è Donato Barile, non so esattamente chi sia, però mi fa ridere anche per il nome. Alla fine avere un nome che suona bene è importante. Allora, innanzitutto, prima di andare a sentire le persone che hanno qualcosa da festeggiare veramente oggi, 800 24 0024 349 238 6666, vorrei ricordarvi che tra una settimana, anzi meno di una settimana, che da mercoledì, credo, a Radio 24, o da domani, o ne sapessi una, insomma, che c'è il beat, che è da giovedì, perfetto, grazie mille a Claudia, da giovedì inizia il beat, e Radio 24 è la radio ufficiale del beat, e quindi ci saranno diversi programmi, e noi, in particolar modo, noi di Io Sono Qui, saremmo lì venerdì, in diretta, come se niente fosse, cioè nel senso nello stesso orario, alle 16, però al padiglione 3 lo stand è il B49C50. Niente, ho detto delle robe un po' a casaccio, però fondamentalmente si chiama La Beat, anche perché sta per Borsa Internazionale del Turismo. Borsa Internazionale del Turismo, perfetto. Radio 24, la radio ufficiale, io sono qui e là venerdì, quindi potete venire a vedere, credo. E regaliamo anche dei biglietti, mi pare. Però mercoledì regaliamo 4 biglietti per venire alla Beat. Un vero mai più senza, oserei dire. Ci vediamo venerdì alle 14. Buonanotte. Alle 16 là. 800240024 349 238 6666, perché oggi è un giorno importante, non perché è il 14 febbraio, ma perché il 14 febbraio di qualche anno fa succedevano delle cose. Vi faccio un esempio di avvenimenti accaduti nel mondo il 14 febbraio, andando a ritroso dal più recente. Nel 2003 muore la pecora Dolly. Ce l'abbiamo una base un po' triste per la pecora Dolly? La faccio cercare a Pietro così al volo. Il primo mammifero frutto di clonazione. All'istituto Roslin muore il primo mammifero clonato al mondo. Grazie. Gli scienziati dell'istituto Roslin praticarono l'eutanasia sull'animale che soffriva di una malattia incurabile ai polmoni. In effetti, l'esemplare di 6 anni dimostrava un'età biologica maggiore, soffriva di artrite e visse circa la metà delle altre pecore. Basta, direi, questa l'abbiamo data. Nel 1989 il primo di 24 satelliti del sistema GPS viene messo in orbita, sempre il 14 di febbraio. 14 febbraio del 1952 si aprono a Oslo i sesti giochi olimpici invernali. I sesti? Possibile? I sesti. Nel 14 febbraio del 1985 a Londra avviene la prima rappresentazione al St. James Theatre dell'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. E poi altre date, però vorrei capire perché per voi è particolarmente importante oggi e perché lo festeggiate. Basta che non abbia a che fare con quella roba lì di cui parlano tutti. 800240024 349 238 6666. Luca ad esempio mi scrive sempre sul profilo Facebook di prima: oggi è il compleanno di Laura. Bene, Sabina, è il mio anniversario di nozze. Mamma mia, che arroganza sposarsi il 14 febbraio, Sabina. Marco, il 14 febbraio ricorre l'anniversario della morte del pirata Marco Pantani. L'amore che ho verso il ciclismo è dovuto a lui. La mia costante tenacia nel raggiungere obiettivi a prima vista impossibili è per merito suo. L'amore che ho per la Romagna, in particolar modo per Cesenatico, deriva dalle sue imprese. Il 14 febbraio festeggio l'amore verso un personaggio che non c'è più. Forse. Come forse, Marco? Ah, vuoi dirmi che è insieme a Jimi Hendrix e a tutti gli altri là, in quel paradiso là. 800240024 349 238 6666. E quindi sì, oggi è il 14 febbraio. È una giornata storica per gli amanti di Al Capone. In questo giorno, nel 1929, Al Capone decide di sterminare la banda rivale a Chicago, con un gesto che rimarrà nella storia. Questa data però è molto importante anche per altri motivi. Il 14 febbraio del 1895, come dicevo, va in scena la prima dell'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, che è un po' l'inizio della sua persecuzione. Nel 1945 però, in questo giorno, viene bombardata Dresda, nello sterminio giudicato dagli storici il più inutile e il più necessario dell'umanità. E nel 2003, appunto, sempre il 14 febbraio, muore Dolly, la prima pecora clonata. E in più, oggi è lunedì. È il primo giorno della settimana. E poi, sì, è anche la festa degli innamorati. Non è che me ne stessi dimenticando, è solo che non vorrei darle troppa importanza. Però esiste dal V secolo d.C., quindi non l'ha inventata la Perugina come pensavo io. E se ancora qui dopo tanti anni qualcosa vorrà dire, no? Valentino, quello che poi hanno fatto santo, era un tizio di Terni, che fu decapitato. Non so bene cosa c'entri con gli innamorati, ma qualcuno me lo spiegherà prima o poi. E oggi quindi tutti parlano del vero amore, no? Quello di Shrek e quello della Bella Addormentata. E a me non va. Il motivo è questo, perché mi ricordo di quando io non ero innamorato o di quando non avevo nemmeno la ragazza. E San Valentino era il momento peggiore, soprattutto quando andavo a scuola. Era il giorno in cui ogni minuto era dedicato a ricordarti che gli altri sono felici e tu no. Quello in cui tutti sorridono e tutti volti dall'altra parte. Il giorno in cui se non c'hai l'amore sei un poveraccio. E io che non sono uno che finge, quando non ero innamorato mi sentivo come sbagliato. Sì, va bene, oggi sono felice, c'è Natalia e tutto è splendido, ma non sarei coerente se non dicessi che questa festa mi sta profondamente antipatica. È una roba per pochi eletti, è antidemocratica, è un affronto agli sfortunati, è uno sputo agli infelici ed è classista. È la festa della classe dei felici che festeggia, canzonando, la classe dei solitari. ho sempre odiato le feste comandate. A parte quando da piccolo non ci pensavo nemmeno. Ferragosto, Capodanno, pure il Natale in fondo, sono comunque delle imposizioni. Tutti si deve fare la stessa cosa. È solo da pochi anni che ho deciso che in fondo sono dei giorni che posso usare per stare bene. E chi se ne frega degli altri? E chi se ne frega se i fiori in quei giorni costano di più? E se i ristoranti sono pieni, si mangia male? È pur sempre un modo per sorridere. E allora perché prendersela troppo? Ecco, secondo me è perché è così. Perché questa è la parabola del diventare adulti. Mi spiego. All'inizio accetti il mondo com'è, quando sei piccolo. Poi ti ribelli e lo vorresti distruggere. Vorresti dargli fuoco da adolescente. E alla fine un po' lo accetti di nuovo, però più consapevolmente, in un modo tutto tuo. E con un pugno di disillusione e una piccola speranza che magari qualcosa cambi in meglio. Ecco, per me è questo essere adulti. Ecco, potrei dire che essere adulti è capire che è sempre meglio festeggiare che non festeggiare. Ieri ho svegliato Natalie con un mazzo di rose rosse in mano e le ho detto che l'amavo. Lei non ha pianto per la commozione, ma mi ha chiesto se potevo portare via le rose rosse perché lei è allergica. Dobbiamo ancora conoscerci più intimamente, questo mi sembra chiaro. Dopo che ha preso un antistaminico e ha smesso di starnutire, ha iniziato a sorridere. Perché in fondo mi ama anche lei. Le ho detto che la festa di San Valentino mi era sempre sembrata una boiata, ma che poteva essere un'occasione per festeggiare. E che, se anche la festa era il giorno dopo, noi potevamo sfruttare la domenica per regalarci qualcosa. Lei mi ha detto: vorrei tanto essere su una spiaggia, al caldo. Ecco, io non faccio proprio miracoli, però le ho detto: e allora andiamo al mare. Vivere a Milano ha vantaggi e svantaggi. Una cosa che mi piace è che in un'ora e mezza di macchina possa essere davanti alla montagna più bella del mondo, il Cervino. Oppure posso essere sulla Baia del Silenzio. Ieri ho preso la macchina e ho portato Natalie vicino a Genova, perché è un bel posto. Ci sono le palme, si passeggia sopra gli scogli, non fa freddo e si mangia benissimo. Celebrare prima del tempo non porta benissimo, ma per fortuna io non sono superstizioso. Credo perché sono del leone. Comunque, siamo arrivati a Nervi, dove c'è uno splendido porticciolo circondato di case colorate. La gente si raccoglie per chiacchierare e guardare i ragazzini che si allenano a pallanuoto. E poco distante da lì c'è una focacceria con una terrazza a piombo sul mare, che nei giorni di burrasca ti dà la sensazione di essere in mezzo all'oceano, a caccia di Moby Dick. Abbiamo camminato, abbiamo riso, ci siamo baciati, abbiamo cenato, ci siamo fatti regali e un sacco di promesse. Poi, sul tardi, una volta passato l'effetto del vino bianco, abbiamo preso un caffè e ci siamo messi in macchina verso casa. La Serravalle al ritorno è meglio che l'andata, è un po' più dritta, però comunque rimane una strada costruita da un pazzo e percorsa da gente senza troppa paura di morire. Sono qui a raccontarlo oggi, quindi non è successo nulla, tranquilli. Anche perché eravamo due innamorati e quindi vaccinati per ogni preoccupazione e invulnerabili ad ogni insidia. Ed era passata la mezzanotte soprattutto, quindi era San Valentino ormai. Alla fine mi è piaciuto, perché una festa forse è proprio come vincere la Coppa dei Campioni. Serve a celebrare la propria fortuna, alla faccia di chi non ce l'ha. Sono le 16.24, questa è Radio 24, ma oggi è il 14 di febbraio. E un anno fa mi scrive Marco: ho smesso di fumare. 2 anni fa invece mi scrive Paolo: alle 16 in punto nasceva Martino. È bellissimo, dopo 12 ore di travaglio. Che tu ci credo o no, è il compleanno del mio amico Valentino. Che fantasia e che fortuna, direi. Il 14 febbraio di 7 anni fa ero in ospedale con mia moglie che aveva le doglie. Ciao, Igor da Cameri. Il 14 febbraio del 2003 ho firmato davanti al giudice il mio divorzio e lo stesso giorno mi sono messo insieme alla mia attuale moglie. Tutto vero, Pietro da Brescia. Pietro, mi si stanno quasi cariando i denti. 81 anni fa si apriva un cammino di santità nell'Opus Dei e nella Chiesa, anche per le donne. Elena. Ah, nel senso che da 81 anni fa le donne possono diventare sante, giusto? Credo di sì. Oggi si festeggiano gli 83 anni di mio nonno Alfonso. Saluti da Trecate, Angelo, un sacco di novaresio. Il 14 febbraio di 4 anni fa ho preso la patente, David da Prato. Mi sono laureato, ciao Massimo. Insomma, il 14 febbraio in qualche modo ha un senso anche per tutti gli altri. Oppure, come mi scrive Sandro, è il compleanno del mio amico Mauro. È un casino trovare posto nei ristoranti per lui, pertanto da diversi anni è tradizione festeggiare in autogrill. Prima mi si stavano cariando i denti, adesso mi sta venendo la malinconia. Jerry mi scrive: l'altro 14 febbraio è il compleanno del matador Edison Cavani. Valentina: l'altro 14 febbraio è quello che si festeggia nella mia famiglia per tradizione, è semplicemente il mio onomastico. Andiamo però a sentire Ivan, che mi ha scritto che il 14 febbraio di due anni fa ha conseguito la patente. Pronto Ivan? Pronto, buonasera. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Beh, me la cavo. Senti, raccontami, tu sei stato bocciato quante volte? No, una sola per fortuna, ma è stata personalmente una delusione piuttosto cocente. Era stato molto frustrante, non riuscivo proprio a superarla, il fatto di essere stato bocciato. Cioè, tu avevi accusato il colpo della bocciatura dell'esame della patente, Ivan? Sì, mai accusato in un modo così, per fortuna. No, non è che abbia fatto tanti fallimenti, però... Fortunatamente. Tu quindi hai 20 anni oggi, se non sbaglio, ne avevi 18 due anni fa. Ok. Sì. E poi hai capito che tutto sommato ci sono altri fallimenti nella vita, oppure ti è rimasto proprio, ti bruciava? No, sono riuscito a superarlo, forse anche riuscendo a superare appunto l'esame della patente. Perché tu dici, credo di essere diventato adulto sul serio proprio quel giorno lì. Sì, è che ho capito quanto pesa il fallimento e ho trovato una forza che forse non pensavo di avere, di riuscire a ritornare sui miei passi, a capire gli errori e a superarli. Senti Ivan, che cosa fai nella vita? Studi, lavori? Studio, secondo anno di università. Di che cosa? Di mediazione linguistica. Che cos'è esattamente? Studio per essere un interprete. Ah, ok, ed è un corso di laurea quindi? Sì. E quanto va, come va? Bene, bene, per fortuna molto bene, sono in pari e vado bene. Va bene, Ivan, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per qualsiasi altro fallimento. Cioè, che non ti auguro, però arriverà Ivan, pigliala così, insomma. Sì, la patente non sempre la prendi al primo colpo. E poi e soprattutto, come diceva il papà del mio amico Roberto Palermo, anche se hai fatto l'esame, non sei subito professore. Buona giornata, Ivan. Sì, ciao. Adesso mandiamo la borsa, o mi sbaglio? No, non mi sbaglio. La borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Nella fotografia di oggi siamo in un bosco, però non è un bosco sperduto, si vedono delle case appena sotto, è una collinetta sopra un bosco, si vede una casa gialla appena sotto, una sulla sinistra e poi dall'altra parte, sull'altra collina, c'è credo un piccolo paese, una torre, si vede appena perché c'è un po' di foschia. La cosa particolare di questa foto però è che sembra scattata da un angolo nascosto, come se ci fosse qualcuno che sta in un punto e non vuol farsi vedere da sotto. Federico Marangoni, 37 anni. Volevo la mia libertà e l'ho ottenuta. Adesso è giunto il momento di spenderla bene. Eppenheim, Germania, io sono qui. Bravo Federico, facci sapere però come la stai spendendo questa libertà, visto che te la stai godendo. È il 14 di febbraio oggi e voglio fare una fotografia di tutte le cose importanti che sono accadute nella vita delle persone che ascoltano questo programma il 14 febbraio, quindi lo dico già a tutti quelli che sono in attesa anche al telefono, non facciamo troppi complimenti, mi dite che perché è importante per voi questo giorno e poi passiamo oltre. Intanto San Valentino unì in matrimonio un soldato e la sua amata, entrambi gravemente malati prima che morissero. Questo mi danno un'informazione al 349-238-6666. Oggi sono due anni che mia moglie mi ha annunciato di non amarmi più ufficialmente. Abbiamo fatto un anno di separazione il 18 gennaio. Santa liberata. Mi spiace, ma d'altra parte va così. Caccia, non credo che tu abbia annunciato al big match dell'Inter ieri. L'hai seguita alla radio? Di quale big match parli? Non lo so. Oggi ho deciso di fare sterilizzare la mia gattina come atto d'amore. Pensa com'è contenta lei. Il 14 febbraio del 95 ho scoperto di aspettare mio figlio. 7 anni di attesa. Ciao Silvia. Andiamo però al telefono e andiamo da Elena, che credo sia fuori da scuola a prendere i figli. Pronto Elena? Ciao Matteo, sono Ciao. Elena. Hai già recuperato? No, non ho ancora già recuperato, non ho ancora recuperato, ma ho delegato una mia amica di prelevare il primo bimbo, la seconda dovrei riuscire a prenderla io. Ma perché l'hai delegata all'amica? Perché sei al telefono? No, perché adesso stanno uscendo e... E tu sei al telefono? Mi sono allontanata quindi, un po'. Cioè, basta veramente così poco per abbandonare un figlio, una telefonata in diretta. No, non è vero, perché ci sono le amiche in delega e quindi ci sono Elena, le persone autorizzate. Dimmi, 7 anni fa? Sì, è nata mia figlia Giulia, però sì, in un modo un po' repentino, nel senso che è nata di 8 mesi, quindi cioè, non era calcolato e rischiava di nascere quasi in macchina, poverina. Però è nata in ospedale alla fine? Sì, ovviamente a litigare con mio marito perché io volevo andare assolutamente in quell'ospedale, nel frattempo per strada ne abbiamo incontrati altri 3, ma io volevo andare in quell'ospedale lì e poverina veramente è nata in un tempo record. Scusami, è andato tutto bene. A parte che credo che ci sia tuo figlio o tua figlia che ti chiama. Mamma, senti, sottofondo. Senti, solo una cosa, ma non avevate fatto le prove di distanza da casa all'ospedale? Però in questi tempi, cioè nel modo in cui è nata lei, non è stato molto duro arrivare. Okay. Visto che perché era già lì. Dalle prime avvisaglie, quando è nata, è passata un'ora secca, quindi è stato molto molto duro. Ed era il 14 febbraio. Elena, vai da tua figlia che guarda, già non la sopporto io, figurati te che continua a chiamarti. Buona giornata. Ciao Elena, Matteo, grazie. No. Andiamo da Alessandro a Vicenza. Pronto Alessandro? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene, oggi è un giorno importante per me perché mi hanno detto che mia figlia è guarita da una forte polmonite. Oh, ma oggi 2011? Oggi. Sto tornando, io abito a Vicenza, però mia figlia abita a Udine. Sì. E come premio, perché ha mangiato le medicine, perché è rimasta un po' in ospedale, altre cose, le abbiamo portate al mare. Senti, quanti anni ha tua figlia? 3 anni. Ah, è piccola. Piccola. Quindi la polmonite era una roba grave? Abbastanza. No, perché in primo momento sembrava una banale influenza. Sì. E poi no. La dottoressa ci ha detto che erano polmonite, è stata trattata in un primo momento, non era funzionato, adesso funziona. Bene, quindi il 14 febbraio 2011 rimarrà come la guarigione, Alessandro. È segnato sul calendario. Agenda importante. Grazie Alessandro, buona giornata. Grazie a te. Ciao. Andiamo. Grazie mille Alessandro. Andiamo da Claudio, provincia di Cuneo. Pronto Claudio? Ciao. Ciao, raccontami perché. 15-16 anni, sì. Nel San Valentino non sapevo nemmeno che cosa volesse dire. Cioè, a 15-16 anni non sapevi cos'era San Valentino? Parliamo di 12 anni o 13 anni fa, dove, anzi, quasi 20 anni fa, scusami. Sì. Uscivi con gli amici per fare baldoria, quindi le ragazze erano qualcosa per divertirsi di più. E cosa è accaduto quindi il 14 febbraio? Rientrando la sera in motorino, nonostante fosse febbraio, i genitori assolutamente motorino non lo tocchi, cane che ti attraversa la strada, cadi, ero un braccio rotto e così. Malamente o cioè scomposta o? No, composta, ma il gomito 40 giorni con il gesso col braccio piegato in fuori, quindi... In fuori? Sì, ho capito. A 90 gradi con l'ascella alta. Esatto. Ho capito. Claudio, grazie mille, buona giornata. A te, ciao. Ciao, alla prossima. Intanto mi scrivono, ho firmato un contratto di export per Hong Kong. Sì, ma di che cosa però? Chiedo a Barisoni dopo, che lui sta roba le sa. Andiamo a Padova da Simone. Pronto Simone? Ciao. Ciao, il 14 febbraio di 9 anni fa? Di 9 anni fa è nata mia figlia Sofia, la notte che la mia moglie aveva le doglie, notte di San Valentino, è venuto anche un piccolo terremoto qua a Padova. Ah, vedi? Tutto insieme. Ma è stata una roba grave, no? No, nessun danno, niente, però si è sentito, non eravamo al terzo piano dell'ospedale, si sentiva ancora di più. Ho capito, senti... Sono in macchina, sono appena andato a prendere il regalo per mia figlia e il regalo per mia moglie. Cosa gli hai preso? A mia figlia uno zaino nuovo, a mia moglie ancora sto andando, non lo so ancora. Come non lo sai ancora? Cioè stai andando a casaccio, Simone? A casaccio. Ma quindi tu hai fatto regalo a tua figlia per il compleanno e a tua moglie per San Valentino? Esatto. Da quanto state sposati? Da 10 anni. Da quanto state sposati? Sembro di Napoli. Da 10 anni siete sposati? Sì. Quindi insomma, cioè, diciamo vale un po' tutto dopo 10 anni? Vale un po' tutto. Dimmi un'idea, ce l'avrai un'idea? Ce l'avrai un'idea, Simone? Sì, penso una scatola di cioccolatini, classico. Mi stai prendendo in giro? Con una rosa in mano. No, mi stai prendendo in giro? Le regali una scatola di cioccolatini? Sì. Vabbè, poi magari ci fai sapere come l'ha presa. Simone, buona giornata, grazie. Grazie, ciao. Ciao, finalmente. Ho firmato un contratto di export per Hong Kong, ma di che cosa, Marco? Di vino. vino italiano? Assolutamente. Che produci sì, tu? Toscano. Che produci tu? Sì. Che vino è? Si va a Cortona d'Oc. Quanti soldi facciamo con questa esportazione a Hong Kong? Quanto basta per vivere? Per quanto basta per vivere da solo, in famiglia no, o in centro? No, grazie a Dio abbiamo famiglia, grazie a Dio abbiamo famiglia. Senti, oggi l'hai firmato? No, l'avevo firmato, però non aveva dato seguito, invece oggi è andato in porto. Va bene, quindi si festeggia stasera? Assolutamente, sì. Grazie Marco, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie, alla prossima. Ci sono storie che continuano a essere raccontate qui a Io Sono Qui. Oltre alla mia c'è una storia che è quella di un ascoltatore che si chiama Luca, che continua a scrivermi a capitoli la sua vita. Per chi non se lo ricordasse, Luca è quell'ascoltatore quarantenne che è separato, che ha un figlio che vede una volta ogni 2 settimane, e questo è il 4º capitolo della sua storia. Caro Matteo, da quando sono separato, 4 anni lunghissimi, ho convissuto con la precarietà, i problemi di bilancio, con chi non capiva e non capisce ancora oggi la mia scelta. Ma la battaglia quotidiana è con la solitudine. Questa battaglia è infinita, continua da tempo, ti consuma. Io torno a casa la sera, mediamente sto fuori dalle 13 alle 14 ore. So che nessuno mi aspetta a casa, perciò dedico tutto il tempo al mio lavoro. L'ascensore che sale verso l'ultimo piano è l'ultimo passaggio prima di entrare nell'appartamento in affitto in cui vivo ora. Nello specchio dell'ascensore vedo la mia faccia sempre più stanca. Man mano che si affrontano i giorni della settimana, la barba si allunga, le rughe si notano di più, i capelli sono sempre più spettinati. Entro in casa, la prima cosa che faccio è togliermi le scarpe. Automaticamente vanno a finire sotto il mobile dell'entrata. La casa è quella che è: 2 stanze, bagno e cucinotto. È più un accampamento, visto che ho in giro scatoloni di roba che mi sono portato dopo la separazione. La serata vola via. Sinceramente non ti accorgi del tempo che passa. Doccia, cena, televisione e arriva l'ora di andare a letto. Stendersi a letto comincia dopo un po' a diventare difficile. Punto la sveglia e mi metto sotto le coperte. Spengo tutte le luci. Ascolto il silenzio. Nonostante viva in centro, durante la settimana le vie sono deserte. Il freddo e la nebbia tengono lontani tutti. Mi sento stanchissimo, ma non dormo. Comincio a pensare. Il lavoro, i soldi che mancano. E poi, un'altra notte passata. E si riparte. Io sono qui, Luca. Grazie a Luca che continua a scrivermi la sua storia. Grazie a voi che continuate a essere lì ad ascoltarla. Grazie però soprattutto a Claudia Carusi, a Pietro Lacorte e a Tiziano Bonini. E poi è arrivato un ultimo messaggio a proposito dei tempi che cambiano, ed è questo: porto ora mia figlia 12 anni alla sua Ciocco Valentine. Non voglio sapere che cosa sia. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?